tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, Marsiglia Milan e Juventus Bordeaux. Dunque, domani Lione Fiorentina e Inter Barcellona. Sono quattro sfide di cartello, nel pieno senso della parola, per il debutto dell'avventura europea, ma con questa differenza: che con Rubin Kazan e Dinamo Kiev nel girone, Inter Barcellona in realtà è una sfida platonica che serve per il prestigio e servirà per la supremazia nel girone. Sappiamo poi del vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno negli ottavi, ma insomma non credo che né Inter né Barça rischino e che quindi i punti in palio domani a San Siro e poi nel ritorno al Camp Nou siano, per l'appunto, se non platonici, siano dei punti che non decideranno la qualificazione. Mentre negli altri tre casi le francesi sono tutte e tre le mine vaganti dei rispettivi gironi, perché in uno ci sono Milan, Real Madrid e Marsiglia, nell'altro Juventus, Bayern e Bordeaux, e nell'altro ancora Fiorentina, Liverpool e Lione. Le vigilie delle due partite di stasera attraverso i contributi vocali. Comincerei da, per diritto di ospitalità, visto che il Milan torna a Marsiglia su un luogo di un vecchio delitto che poi anche Galliani ricorderà, sentiamo Didier Deschamps. No, dico che la luce provo a controllarla già nel vestuario, così almeno i giocatori mi possono vedere quando devo parlare. No, dico che appartiene al passato, sicuramente della parte del Milan. Hanno letto che Galliani si ricorda bene questo fatto, che ha costato tanto al Milan un anno di squalifica, e sicuramente un punto nero nella sua carriera di dirigente, però è passato tanti anni fa e sono convinto che tutto si giocherà unicamente su campo domani e che fuori tutto andrà bene. Allenatore del Marsiglia, dopo essere stato anche della Juventus nell'anno del purgatorio della Serie B. L'allusione era ovviamente al famoso e celeberrimo tilt dell'impianto di elettricità, ma anche tilt della dirigenza milanista nel marzo, il 20 marzo del 91. Sentiamo cosa dice in proposito proprio Galliani. La Champions è il nostro habitat. Vorrei ricordare che siamo l'unica squadra d'Europa che ha fatto tre finali in questo millennio. Marsiglia, lo stadio è il Velodrome, l'Olimpico. Sì, ma l'hanno rifatto, adesso l'illuminazione dicono che funziona bene. Il Real Madrid credo che arriva nei primi due posti, quindi il secondo posto se lo giocano sempre presumibilmente Milano e Marsiglia. Quindi è importante la partita domani. Nel frattempo è sbarcato già a Milano il Barcellona per la partita di domani sera, poco dopo le 12.30. Una buona sensazione tornare a Milano, ha detto Ibrahimovic. All'arrivo sarà una grande partita. Gli è stato chiesto che accoglienza si aspetta dai tifosi, che è un po' uno dei grandi temi del momento, in mancanza di meglio ovviamente. Ha replicato: niente, se parlano bene di me sono contento. Dopo le 18 a San Siro ci sarà la conferenza stampa di Guardiola del capitano Puyol e un'ora dopo alle 7 l'allenamento di rito della vigilia allo stadio Meazza. Abbiamo più o meno esaurito il... no, non abbiamo esaurito il Marsiglia-Milan, perché dobbiamo invece sentire che intenzioni ha Leonardo per la partita del Milan. Non è un gran momento per la squadra rossonera, quindi l'unica è sperare che il Milan si ritrovi in Coppa dei Campioni, visto che, come Galliani ricordava, quello è il suo habitat, perlomeno il suo habitat di queste ultime stagioni. Leonardo. Quello che io mi aspetto dalla squadra è la risposta positiva a quello che è l'importanza di questa competizione. Questa è la nostra competizione, questa è la competizione che abbiamo fatto negli ultimi anni, diciamo, un ciclo straordinario. E la Champions League per noi, quando comincia questa canzoncina, qualcosa, e questa ci è mancata, noi sappiamo cos'è star fuori. Allora è il momento di giocare, è il momento di cominciare, è bellissimo tornare e lì ci vuole tutto, ci vuole orgoglio, ci vuole consapevolezza dei nostri mezzi, e quello è fondamentale. Alla fine quello che cambia è l'impostazione mentale. Oh, mentre stiamo parlando, il nostro ministro degli esteri, come sapete, Fabio Tavelli, è impegnato con la Coppa dei Campioni, nel senso che la Coppa dei Campioni troneggia fisicamente negli studi di Sky Sport 24 e più tardi Fabio ci racconterà l'emozione di trovarsela così, così vicina, così a portata di mano, questa famosa Coppa delle Grandi Orecchie. Bentornato allora a Nicola Roggero. Buongiorno Nicola. Buongiorno Gigi, buongiorno gli ascoltatori. Oh, io so che stasera la scaletta di Sky prevede per te la telecronaca di Chelsea-Porto, correggimi se sbaglio. No, esattamente, Chelsea, che è la squadra che forse ha i maggiori crediti con la Coppa dei Campioni, visto che due anni fa la perse perché Terry scivolò sul rigore decisivo e l'anno scorso uscì con il Barcellona in maniera obiettivamente immeritata. Sì. Che non sia la volta buona. Hanno preso fra l'altro un grande specialista di Coppa dei Campioni, l'ha messo in panchina, quindi ha fatto la mossa giusta. Ma infatti, io trovo che a parte le partite di Juventus e Milan, che ovviamente ci riguardano più da vicino, mi pare che Chelsea-Porto, anche per il valore del Porto, sia di gran lunga il match clou di stasera, ripeto, italiano a parte, e non è un caso che tu sia stato designato per questa telecronaca. Il Chelsea e le altre inglesi, secondo te, a parte i meriti del Barcellona, che lo scorso anno riuscì a infiltrarsi, no, tra quelle quattro semifinaliste con tre inglesi e loro riuscirono a vincere, come si presenta la pattuglia inglese quest'anno? Ma direi che a livello di sorteggio a chi è andata peggio è proprio il Chelsea, perché il Chelsea ha, come si ricordava, il Porto che affronta stasera, ma nello stesso girone c'è anche l'Atletico Madrid, quindi insomma non c'è una terza squadra debole per il Chelsea, quella che sicuramente faticherà di più, anche se l'inizio di campionato è decisamente confortante. Ancelotti non ha ancora sbagliato un colpo, ha vinto subito la Community Shield, che è la supercoppa inglese, battendo i rigori il Manchester United, e poi 5 vittorie su 5 in campionato, battendo fra l'altro il record che aveva fatto Mourinho nella sua prima stagione al Chelsea. Mourinho si era fermato a 4 e penso che, visti i rapporti tra Mourinho e Ancelotti, ad Ancelotti questo primato faccia abbastanza piacere. Sì. Sulle altre direi che il Manchester United sembra aver assorbito abbastanza bene la cessione di Cristiano Ronaldo, visto che ha battuto l'Arsenal, ha battuto sabato scorso il Tottenham, addirittura vincendo 3-1 in trasferta e giocando in 10 uomini. Per giunta credo che sia confortata da un girone che presenta Wolfsburg, campione di Germania, ma quest'anno insomma con un rendimento che appare decisamente in calo, CSK Mosca e Beşiktaş, quindi insomma dovrebbe essere una simpatica merenda per il Manchester. Un po' peggio per il Liverpool, perché nel suo girone ha sia Lione che Fiorentina, insomma, che sono due brutti pesci anche per il Liverpool, che insomma un paio di battute di arresto le ha già avute. E poi c'è l'Arsenal, che obiettivamente appare meno competitiva, anche perché ha ceduto gente importante come Kolo Touré e Adebayor, e di Adebayor si è accorto proprio sabato scorso ne parleremo. Ecco, l'Arsenal con Standard di Liegi, Olympiacos Pireo e Zeta Alkmaar, penso che non dovrebbe dare molti problemi a passare agli ottavi. Certo, proprio Adebayor è stato protagonista sabato di uno sgradevolissimo episodio, non più abituale per fortuna sui campi inglesi. Avete appena sentito il numero verde per le segnalazioni che riguardano il traffico, il nostro è un altro, come sapete, 800 24 00 24, a cui potete intervenire per poi partecipare direttamente alla trasmissione. Nicola, si giocava Manchester City Arsenal, Adebayor è uno degli ex illustri dell'Arsenal, che cosa ha combinato dopo aver fatto gol sabato? Dunque, lui appunto ha segnato il gol che praticamente poi ha dato la vittoria del Manchester City 4-2, attenzione tra l'altro che con tutti i petrodollari di produzione del Manchester City non è escluso che presto ci sarà una nuova forza nel calcio inglese che arriverà in Europa e sicuramente sarà destinata a recitare un ruolo importante. Detto questo, Adebayor ha fatto una cosa obiettivamente molto sgradevole, cioè ha cominciato a correre non per festeggiare il gol ma per andare a raggiungere lo spicchio di gradinate in cui erano radunati i tifosi dell'Arsenal, e attenzione, erano esattamente dall'altra parte del campo rispetto alla porta in cui aveva segnato Adebayor, ed è andato ad esultare in maniera decisamente plateale e insomma in maniera anche direi ineducata verso quella che fino a 3 mesi fa era la sua tifoseria, erano i suoi tifosi. Non l'ha presa per niente bene la Football Association, che quest'anno ha annunciato una serie di giri di viti importanti: non si tollerano più proteste con gli arbitri, non si tollerano più atteggiamenti che non siano civili lì in campo, sono già arrivate prima squalifiche abbastanza pesanti, è vietato commentare l'operato dell'arbitro qualunque esso sia, e adesso De Maior dovrà attendere un verdetto che potrebbe però essere molto molto pesante. Qualcuno addirittura ipotizza 6 turni di squalifica, e attenzione, la prossima giornata si prevede il derby di Manchester, per cui insomma per il City sarebbe una bruttissima botta. Sì, bruttissima quanto meritata, anche perché gli steward, non c'è stata invasione di campo nonostante la provocazione grave di Adebayor, un po' per il senso di responsabilità dei tifosi dell'Arsenal e un po' perché gli steward hanno fatto argine, se non ho visto male dalle immagini, però hanno preso Sono stati molto pronti anche loro. Devo dire che se non ci sono più gli hooligans in tribuna, come evidentemente dimostra l'atteggiamento dei tifosi dell'Arsenal, ahimè ogni tanto spunta, non dico qualche hooligans in campo perché non sarebbe poi giusto insomma etichettare Adebayor come tale, però insomma degli atteggiamenti da hooligans ogni tanto spuntano. Sì. Adebayor questa volta, ricorderete tutti la scenata, e uso un sottile eufemismo, di Drogba dopo il famoso Chelsea-Barcellona di certo, cui abbiamo già parlato. Certo. Quanto Drogba potesse aver ragione sugli errori di Overbrook, insomma quegli atteggiamenti non sono mai ammissibili e giustificabili. Sì, senza dimenticare che se arriva ad avere una squalifica molto pesante, anche perché Adebayor, dopo la sceneggiata che ha scatenato il pubblico, si è anche preso il lusso di tirare un calcio in testa o in faccia a Van Persie, suo ex compagno dell'Arsenal, che era a terra tra l'altro. Quindi io credo che se quello fosse il tariffario sarebbe molto ma molto meritato. C'era un'altra tariffa che nel frattempo era stata applicata per Eduardo in ambito UEFA, squalificato per 2 giornate per una simulazione nel match con il Celtic di avvicinamento, di qualificazione alla Champions League vera e propria, e invece queste due giornate sono state annullate. Cosa fa la UEFA? Lancia il sasso e poi rinasconde la mano? Sì, io non vorrei che fosse così. Fra l'altro io sono dell'idea che la simulazione sia una delle colpe più orrende di cui si possa macchiare un calciatore, perché nella simulazione viene veramente meno il principio di lealtà sportiva, non si rispetta lo sforzo di un avversario, si cerca di ingannare l'arbitro. Quindi io sarei per il provvedimento drastico del rosso per la simulazione, non del semplice giallo. Guarda, nel caso di Adebayor mi metto soltanto una mano sul cuore, ricordo cosa ha passato questo ragazzo che un anno e mezzo fa fu vittima di un incidente terrificante. Eduardo, intendi? Non ti è scappato una Adebayor? Un Eduardo, sì, ecco, Eduardo. Era sempre dell'Arsenal. Sì. Certo, sì, è vero. Fu vittima di un terrificante incidente. Io non ho mai avuto nemmeno il coraggio di guardare le foto che apparivano sui tabloid inglesi, dove si vedeva praticamente questa tibia sbriciolata all'interno, sì, del calzettone. Ecco, diciamo che per ripagare in qualche modo Eduardo di quel terribile incidente forse era giusto togliere queste 2 giornate di squalifica, ma ripeto, la simulazione è veramente una colpa di cui un professionista, e non solo un professionista, non dovrebbe mai macchiarsi, perché veramente viene meno il principio della lealtà sportiva. Chiuderei con un altro britannico, sempre per competenza territoriale, anche se gioca negli Stati Uniti. Siamo arrivati alla seconda espulsione in un mese per Beckham, e questa direi più sgradevole ancora, perché poi ci sono delle foto che campeggiano su tutti i giornali in cui Beckham prende letteralmente per il collo un avversario nel corso di una mini rissa in campo. Allora, grande rendimento tecnico al momento non risulta, in compenso risultano intemperanze disciplinari, insomma, tutto sommato non particolarmente lusinghiere, no, per un giocatore di quel prestigio. Sì, ma anche perché fra l'altro Beckham non lo si ricorda comunque come un giocatore scorretto, a mio parere un giocatore molto sopravvalutato, ma questo l'ho detto in questo è un'altra storia. È un buon giocatore che qualcuno spaccia per fuori classe. Nel caso però dell'ultimo mese deve essergli andata in tilt il cervello, visto che prima si parlava del tilt che aveva colto qualche anno fa i dirigenti milanisti a Marsiglia. 2 espulsioni in poco meno di un mese sono tante, questa appunto ancora più grave perché è avvenuta a gioco fermo, prendendo per il collo il povero messicano Hernandez. La mia impressione è che Beckham voglia rompere con i Galaxy per essere poi libero di accasarsi in formazione europea, eventualmente di tornare al Milan per potersi giocare le fiancanze ai mondiali, visto che Capello è stato abbastanza chiaro, lui per convocare Beckham ha bisogno di vederlo in un campionato competitivo, quindi in Europa. Certo, il modo che sta cercando, se questo è il tentativo, il modo in cui Beckham sta cercando di liberarsi dell'accordo con i Los Angeles Galaxy, che gli hanno versato delle cifre da qualche punto di prodotto interno lordo, sì, insomma è davvero poco educativo, davvero poco simpatico. Direi proprio di sì. Grazie Nicola. Grazie. Gigi, grazie agli ascoltatori. Chiudiamo questo collegamento con Nicola Roggero augurandogli una buona telecronaca di Chelsea Porto, ripeto, nell'ambito di questa prima serata di overdose di Coppa. Nel frattempo la notizia che arriva da Nyon, cioè dalla sede dell'UEFA, è di quelle davvero molto importanti, la commenteremo nei prossimi giorni con Marco Bellinazzo, cioè con il nostro esperto del Sole 24 Ore in questa materia, e cioè come si sperava, il comitato esecutivo dell'UEFA ha approvato all'unanimità il progetto di fair play finanziario. Quindi il nuovo regolamento prevede che i club partecipanti alle coppe europee non possano spendere più di quanto incassano, con poche eccezioni per quanto riguarda le infrastrutture e gli investimenti sui settori giovanili. La nuova norma entrerà in vigore progressivamente e in maniera sarà operativa definitivamente dalla stagione 2012-2013. Il controllo verrà affidato a una commissione indipendente presieduta dall'ex primo ministro belga. Ci sono già degli ascoltatori collegati, sentiamo un paio di voci del pubblico. Massimo della provincia di Milano, per esempio, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Complimenti per la trasmissione, è sempre bellissima. Premetto che sono interista, non sarò domani sera allo stadio, ma applaudirei Ibra perché ci ha dato tanto. Seconda cosa, i nostri giocatori sono, direi, maleducati nei confronti dell'arbitro, e io punirei la bestemmia quando viene inquadrato il labiale che la esprime nettamente. Volevo dire una terza cosa, secondo me la più importante: alcune TV private, Antenna 3 o Tele Lombardia, tanto per non far nomi, noto che stanno prendendo un certo accanimento sulla disputa tra Inter e Juve. Per i tifosi come me non è un problema, ma credo che per gli agitati possa diventare qualcosa di veramente serio. La ringrazio e l'ascolto per radio. Grazie a lei Massimo, non c'è niente di nuovo purtroppo, perché è una regola che ormai risale all'81, 80-81, no? La stagione del debutto di Biscardi, che si specula sulle rivalità a fini di audience, quindi mi pare purtroppo niente di nuovo sotto il sole, e ormai i danni che sono stati fatti da questo punto di vista, dal punto di vista dell'educazione sportiva, del rispetto dell'avversario, ma anche direi dell'intelligenza e non solo calcistica, sono danni, temo, irreversibili. C'è Luca, chiamato da Arezzo, buongiorno. Buongiorno, io sono merita la Champions League, questo intervento in generale, ma visto il massimo da Milano, volevo anche puntualizzare che riguardo Inter-Juventus quest'anno secondo me c'è una gran voglia di rivedere la Juventus. Luca, ho capito il concetto, però la voce stava andando e venendo e poi è definitivamente andata. Non stava parlando di rivalità di Inter-Juventus, stava dicendo di come questa rivalità, e non solo questa, vengano poi che già non avrebbero bisogno di additivi, perché già è abbastanza forte di suo, e fin troppo alimentata da parte dei responsabili o presunti tali delle rispettive società, squadre e come dire staff tecnici, già non avrebbe bisogno, e invece viene ulteriormente amplificata. Questo era mi è sembrato da parte dell'ascoltatore milanese una riflessione che non entrava nel merito poi di questa rivalità. Torniamo alle vigilie di Coppa e torniamo alla vigilia di Torino. Finora abbiamo sentito quella di Marsiglia, sentiamo Ferrara per cominciare. Sappiamo che non potrà essere assolutamente una partita normale per noi, perché è la prima di Champions, perché è la prima del girone e perché la prima partita ha sempre dei risvolti pericolosi. E noi affrontiamo una squadra che del terzo gruppo praticamente era la più pericolosa. È nel nostro girone e quindi noi ci teniamo ad iniziare bene. Questo era Ferrara a proposito del Bordeaux. C'è anche un altro contributo dell'allenatore della Juventus a proposito di Diego. Io all'inizio della stagione ho detto che non avrei voluto caricare di troppe responsabilità un singolo giocatore, e in questo caso naturalmente Diego, che era il suo primo anno in Italia. E soprattutto non volevo che una squadra venisse costruita su un singolo giocatore. e credo che le risposte più importanti in questo momento la Juventus le stia avendo proprio da quei giocatori che entrano, che si fanno trovare pronti, che entrano durante magari la partita e danno il loro contributo. Ogni riferimento a Giovinco, per esempio, non mi sembra assolutamente casuale, ma ce ne sono altri. Ieri si parlava di questo uomo nuovo del centrocampo bianconero, ma anche azzurro, che è oggettivamente Marchisio, e altri ancora. 30 secondi, c'è il tempo allora di ascoltare anche la vigilia di Buffon. Sicuramente la Juve di quest'anno non si può dire a inizio settembre che punterà a vincere la Coppa Campioni, però sicuramente come rosa può essere o può sembrare più competitiva ancora di quello che fosse che lo era l'anno scorso, ecco. Se una grande squadra vorrà essere considerata tale, non può e non deve dipendere da solo un giocatore, ecco. Dopo l'intervallo per i mercati sentiremo da Fabio Tavelli direttamente dagli studi di Sky Sport 24 che sensazione rappresenta quella di avere la Coppa dei Campioni a un metro dopo averla sollevata per posarla su un tavolo, e tante altre cose ancora. Capita spesso ai ministri di giocare su due tavoli, no? nella vita reale, figuriamoci ai ministri, per modo di dire, come Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Per modo di dire, ho visto che ho la diretta di Sky Sport 24 davanti agli occhi, ho visto che ti sei sganciato e che quindi puoi partecipare, sì, al nostro appuntamento. Della cosa ti ringrazio, a patto che ci racconti cioè come mai avete la Coppa dei Campioni in studio, cioè ve la siete annessa? No, ce l'hanno portata perché la Champions League fa un tour, si chiama UEFA Champions League Trophy Tour, ed è un giro per tutta l'Europa che uno sponsor ha, come dire, acquistato per portare in giro la Coppa dei Campioni, la Champions League, che domani alle 15 sarà in Piazza Duomo a Milano, stasera credo sarà a Torino, in mezzo alle panchine tra quella di Blanca e quella di Ciro Ferrara. E oggi nel viaggio sono passati a portarcela anche a noi, e noi l'abbiamo tenuta un'ora e mezza e l'abbiamo un po' coccolata. Sì. Pesa? Non l'ho sollevata. Non l'hai sollevata. Quindi... Non l'ho neanche toccata, perché era troppo, come di un'opera d'arte dal punto di vista così della realizzazione di tutto il resto. Io credo che certe cose non vadano toccate, vadano ammirate, ma non toccate, quindi non l'ho toccata anche perché era vietato, perché c'era lì la security ecco, che era pronta a tagliare le mani, ma non l'avrei toccata lo stesso. Bene, questo è molto bello da parte tua. Vabbè, io nel frattempo la sto continuando ad ammirare di lì, e ovviamente, ripeto, dato che stai giocando su due tavoli, quando ci devi mollare ci molli, ho un po' di tempo adesso e pazienza per oggi. Se riesci a restare, io comincerei da un'agenzia appena uscita, che immagino sia rimbalzata anche sul vostro tavolo, e cioè dal fatto che Platini, dopo l'approvazione di stamane del fair play finanziario, Nyon, eccetera, che poi è la cosa più importante in prospettiva, ma ha già annunciato che l'esperimento dei cinque arbitri che inizierà dopodomani in Europa League, dalla prossima stagione o al massimo dalla successiva ancora, ma già io leggo qua dalla prossima primavera, ci sarà l'arbitraggio a 5 per tutte le gare di Champions League e per tutto l'Europeo 2012. E questa mi sembra una svolta discreta. Mi sembra un altro dei tasselli del piano Platini, che è, secondo me, secondo in tanti, è giusto che lui porti avanti con una sperimentazione, ma con una sperimentazione che non può essere troppo lunga, non può essere una sperimentazione fatta nei tornei giovanili, perché lì tutto sommato va sempre bene. Bisogna sperimentare nei tornei professionistici. Adesso lo fa l'Europa League, poi lo farà la Champions League, e non ci vuole così tanto per sperimentare. È giusto farla subito, è giusto farla presto. Poi già sento le battute, se ci sono 5 tagliavento dopo averlo visto domenica sera nel posticipo, magari non andrà bene. La cosa fondamentale, a parer mio, sarà riuscire a capire bene le competenze, bene la differenziazione dei ruoli e bene l'organizzazione interna tra di loro. Poi è ovvio che 10 occhi vedono meglio di 2, di 4, di 6 e di 8. Questo mi sembra banale, ma è vero. Sì, poi bisogna anche vedere se vedono nella stessa maniera, se invece non c'è unanimità di giudizio, cosa succede. Insomma, non saranno tutte rose e fiori. Certamente no. È un tentativo. qualitativo certamente lodevole. Senti, a proposito di primo giorno di scuola per questa Coppa Campioni che avete in studio, mi sembra che nessuno abbia ancora, anche perché siamo al primo turno e lontanissimi dalla finale, ma nessuno ha ancora ricordato con le maiuscole che cambia un'abitudine secolare, millenaria, sì, potremmo dire, visto che, cioè, che la finale si giocherà di sabato. Si giocherà sabato 22 e io nel salutare la Coppa le ho 22 proprio, maggio, eh? 22 maggio, certo. Le ho proprio detto, farai un lungo viaggio, ma ci rivediamo sabato 22 maggio. Sì, perché... Quindi hai fatto pure la rima baciata. Con... Esatto. Sì, è una novità importante, perché intanto questo costringerà, intanto è un anno particolare, cioè i campionati saranno tutti finiti, almeno quelli più importanti, perché ci sono i mondiali in Sudafrica e quindi sabato 22 sarà ovviamente libera come data o come lo sarebbe stato di mercoledì, però credo che magari da un certo punto di vista dispiacerà, perché la Champions il mercoledì comunque era sempre un evento classico. Però insomma, qui è evidente che c'è necessità forse di audience o d'altro, anche se poi in realtà la Champions League faceva sempre il pieno, non risulta che cancellassero altri programmi per far vedere la Champions come su una rete unica, perché la Champions comunque il mercoledì nella finale viveva di una luce propria e non aveva bisogno di stravolgimenti nei palinsesti e nelle altre televisioni. Non è l'unico cambio di calendario significativo, anche se parliamo di Champions lo è. Se parliamo invece di qualificazioni europee, leggevo stamane, si è deciso che a partire per l'appunto dalle prossime, e qui che scatteranno il prossimo anno, il prossimo autunno per gli europei del 2012, le qualificazioni si giocheranno non più di sabato e mercoledì come è adesso, per esempio per quelle mondiali, ma di venerdì e di martedì. Questo perché? Per andare incontro alle società che chiedono di riavere indietro i giocatori un giorno prima, e questo mi sembra un buon segnale di distensione nei confronti dei club fornitori di giocatori, e mi sembra un ulteriore, dall'altro punto, perché insomma le ottiche sono sempre due, un'ulteriore penalizzazione per le nazionali che hanno un giorno in meno d'allenamento. Le nazionali avranno sempre più problemi. Io credo che prima o poi bisognerà mettere mano completamente alla riforma, cioè bisognerà fare una riforma completa per quanto riguarda le qualificazioni mondiali agli europei, perché mentre gli europei comunque ci sono dei viaggi più brevi, le distanze geografiche sono decisamente inferiori, quando ci sono i viaggi transoceanici per chi deve giocare con la sua squadra in Australia piuttosto che in America del Sud o comunque deve fare un viaggio intercontinentale, e lì anche un giorno è importante, ma può anche non bastare. A parer mio bisogna che sia Blatter che poi comunque la UEFA con Platini comincino anche a ragionare sull'ipotesi di fare delle qualificazioni a campionati fermi, magari a fine di una stagione nella quale non ci sono grandi eventi, fare diventare le qualificazioni un grande evento e non un intralcio, una noia, perché diciamo la verità, quando comincia il campionato fermarsi subito, noi lo abbiamo testato anche attraverso internet, attraverso quello che ci dicono gli ascoltatori, dà già fastidio e quindi secondo me bisogna pensarci, e anche in fretta. Fabio, i gironi che riguardano le italiane, prima abbiamo parlato degli altri gironi con Nicola Roggero. Io, per quanto riguarda gli italiani, molto banalmente ho osservato che Inter-Barcellona in realtà è una partita platonica, perché le altre due squadre sono deboli e quindi si gioca soltanto il primo posto, mentre le tre francesi, che per pura combinazione tutte e tre impegnano le italiane nel primo turno, sono in realtà le mine vaganti dei gironi. È una lettura semplicistica? Per esempio, tra Rubin Kazan e Dinamo Kiev qualcuno può dar noia a Barcellona e Inter, oppure questa è un po' l'impostazione della vigilia? Ma questa è un'impostazione, diciamo così, con il codice e il manuale alla mano, sì. Però stiamo attenti, perché già l'Inter andò in difficoltà con squadre anche inferiori a Rubin Kazan o alla Dinamo Kiev l'anno scorso. Dipenderà molto da quello che sarà l'atteggiamento delle due squadre. Ad esempio, se una delle due dovesse perdere mercoledì tra Inter e Barcellona, ecco che già la seconda gara, soprattutto se l'Inter dovesse perdere, perché poi l'Inter ce l'avrà in trasferta, può diventare già quasi uno spareggio. Dipenderà molto anche dal risultato di Dinamo Kiev-Rubin Kazan. Zidane, anche qui vale lo stesso discorso, se una delle due vince comunque comincia ad avere 3 punti e se per sbaglio vince anche la seconda poi diventa un problema. Quindi io direi, è chiaro che come sempre la vera forza del girone la dà la terza squadra, se la terza squadra è una come il Lione, il Bordeaux e l'Olympique di Marsiglia, ecco che allora diventa un girone duro. La Fiorentina in realtà è una terza squadra, non è una seconda squadra, sì. E quindi sapeva che sarebbe andata in difficoltà, però io credo che la Fiorentina potrebbe anche paradossalmente poi avere meno difficoltà di altre. Credo che ad esempio il Milan, se stasera non fa una buona partita, possa essere la squadra che rischia di più, nonostante la indubbia vocazione europea che il Milan ha. Questo Milan secondo me può far fatica. Quindi insomma, non è poi tutto oro quello che luccica, anche nei gironi quello di Inter e Barcellona apparentemente così facili a parer tuo. No, nel senso che dipende molto come va la partita di mercoledì. Io sono d'accordo con te, potrebbe essere semplicemente una passerella, però se una delle due dovesse perdere e se questa fosse l'Inter, cioè per me è una partita molto pericolosa per l'Inter in tutti i sensi, cioè se l'Inter vince per qualche giorno i tifosi dell'Inter penseranno di aver già vinto la Champions e quindi faranno un danno in questo caso all'Inter. Se l'Inter dovesse perdere potrebbe prendere una depressione e dire oh mamma mia, neanche quest'anno ce la facciamo. È un problema più ambientale, lì poi sta agli allenatori e ai dirigenti delle squadre preservare la squadra da questi sbalzi di umore. E Rubin Kazan e Dinamo Kiev, se si qualifica una delle due, fa una sorpresa, ma soprattutto un danno pazzesco alla Coppa UEFA. Certo. Però io non credo che sia impossibile, cioè queste due squadre non devono sbagliare. Io penso che Inter-Barcellona alla prima giornata sia un pericolo, ci fosse stato alla terza o alla quarta giornata, cioè terza e quarta sarebbe giornata, stato diverso. Con un quadro più chiaro allora sarebbe stato diverso. Lettura assai interessante, ti lascio tornare alla tua Coppa dei Campioni. Grazie, un saluto e grazie come sempre di ospitarmi, mi fa sempre tanto piacere. Controllo però che tu non la tocchi, com'hai promesso. No, sono qua allo schermo davanti e mi permetto di controllare. Grazie signor Ministro, chiudiamo il collegamento con Sky Sport 24 e con Fabio Tavelli, ci sono un gran numero di messaggi. Il quarto e quinto arbitro, domanda Max da Udine, possono avere un effetto deterrente per i falli in area? Io penso anche di sì, cioè penso che questa sia un'altra delle ratio di questa legis, no? Nel senso che potrebbe esserlo davvero, soprattutto più ancora per le trattenute che per i falli, perché per il fallo è l'ultima soluzione, il fallo in area, la trattenuta è una cosa preventiva ed è ben diversa, quindi questo, da questo punto di vista credo di sì, ma la ragione principale dell'introduzione degli arbitri d'area è un'altra, cioè è quella di vedere meglio quello che accade e vedere non con un occhio elettronico che schiaccia, deforma e inquina, ma con un occhio umano che sia quindi un aiuto paritetico rispetto agli occhi arbitrali. Poi ci sono dei messaggi di saluto e di bentornato come quello di Federica, che ringrazio in maniera particolare. C'è attesa per la sentenza del giudice sportivo che verrà comunicata nel pomeriggio, temo non in tempo per la nostra diretta, a proposito del comportamento dei tifosi del Siena domenica nei confronti di De Rossi. C'è un futuro politico in vista, leggo da un'agenzia appena uscita, per La Porta, per il presidente del Barcellona, ha già comunicato che non si recherà più ogni giorno al club, e cioè nella sede del Barça, perché La Porta, che l'anno prossimo non potrà più essere rieletto presidente del Barça, si candiderà probabilmente in una lista per l'indipendenza della Catalogna. Come accade da quelle parti, nel senso che lo spirito indipendentista della Catalogna è molto molto forte. Il ripasso di storia affidato come sempre a Nicola Filippone. Sembra ieri. 15 settembre 1978. A New Orleans, Mohamed Ali, 36 anni, conquista la corona iridata dei pesi massimi WBA, battendo il campione in carica Leon Spinks ai punti, con verdetto unanime. Spinks, più giovane di Ali di 11 anni, aveva preso alla leggera l'impegno, convinto che l'ex Cassius Clay, da lui già sconfitto a febbraio, avesse ormai perso l'antico smalto. Ma sul ring, Spinks rimane spiazzato dall'agilità e dalla potenza ritrovate dal vecchio campione. Mohamed Ali riesce così nell'impresa di diventare campione mondiale dei massimi per la terza volta in carriera, a 14 anni dal primo trionfo. C'è un'altra data oggi, rimane la data che è, cioè il 15 settembre, ma come ha ricordato Gianni Mura su Repubblica stamane, con una pagina dedicata al fuoriclasse di tutti i tempi del ciclismo, oggi sarebbe stato il 90° compleanno di Fausto Coppi. E oggi 15 settembre, era nato il 15 settembre del 19, pensate, esattamente 8 giorni dopo Gianni Brera. Si vede che quel settembre del quella prima metà di settembre del 1919 ha dato allo sport italiano, sia come atleta sia come cantore, due dei massimi rappresentanti di ogni tempo. È carino il messaggio che invia Angelo, dice: ma questi 5 arbitri serviranno a creare anche nuovi posti di lavoro nell'indotto, e cioè tassisti, ristoratori, e poi aggiunge motel e score, insomma esagera un tantino, insomma è carina. Credo che Collina si arrabbia sempre molto quando si parla di sudditanza psicologica e dintorni, ma insomma credo che per questo genere di battute possa prendere in maniera più lieve. Vittorio ha chiamato da Siena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Dottor Ganzini? Sì, certo, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono un tifoso del Siena e può bene immaginare di cosa sto trattando. Logica premessa. Stigmatizziamo al massimo noi tifosi quello che è successo domenica scorsa. Assolutamente. Questa città ha la storia, la cultura, le tradizioni per poter impedire che nei prossimi 77 anni, non i 7 in cui siamo in Serie A, possa succedere ancora episodi di questo genere. Però questa è la stessa tifoseria che non ha mai creato una volta problemi, che so io, a un autogrill, o a un'autostrada, a stazione, a un treno. È vero. Noi abbiamo 0 titoli, se non si considerano tipo la nostra salvezza, ma abbiamo 0 euro negli ultimi anni di penalità. Siamo una delle tifoserie più corrette. È vero, Vittorio, ed è proprio... Mi faccia dire, questo è oggettivamente vero, va dato atto alla tifoseria del Siena, ed è proprio per questo che una tifoseria con un comportamento storicamente così virtuoso fa notizia se si macchia di un attacco di burinaggine collettiva come quella di domenica scorsa, di cui lei stesso ha riconosciuto la gravità. Noi abbiamo gli anticorpi giusti per evitare che succedano ancora queste cose, però chiediamoci un po' come mai può essere successo la tifoseria più corretta d'Italia è scesa a questi livelli, ripeto, i 50-100 che hanno cantato, nessuno lo sta, non c'è mai stato un bu nei confronti di alcun atleta di colore, mai niente. Sì, anche perché è un biondino De Rossi, Come? Anche perché è un biondino, non è abbronzato. Però Totti e De Rossi, qualcosa, al di là dell'entusiasmo e dell'esuberanza dei tifosi romanisti, che qui hanno fatto peggio dei tifosi fiorentini e livornesi, che sono nostri storici avversari, qualcosa deve essere successo. E non ho tempo per elencarlo, ma lei senta Manninger e ardito cosa è successo a questi signori. Probabilmente se i loro atteggiamenti, sputare verso la tifoseria, fare gestacci nei nostri confronti, forse noi stigmatizziamo i nostri atleti, e concludo, però qualcuno dovrebbe anche dire che il comportamento di campioni come Totti e De Rossi dovrebbe essere altrettanto stigmatizzato. Grazie Vittorio, andiamo a Reggio Emilia, Latino, buongiorno. Sì, buongiorno, sento dottor Garanzini, volevo parlare di questo. Si è dato troppa importanza al gol annullato a Mauri, che poi non è un gol annullato, l'arbitro l'ha fischiato prima. Quindi proprio perché era contro la Juve, la carta stampata, i giornalisti così hanno fatto tutto questo totò. Tino, gliela sta dando lei questa importanza, perché siamo a martedì, hanno giocato sabato sera, cioè se ancora è lei che la sta menando su questo, no, non certamente questo programma, tutti per esempio. Tutti i giornali, la domenica. La domenica, il giorno dopo, potranno pure riferire per diritto, anzi dovere di cronaca, come è andata la partita della sera prima. Ha detto che il gol era, secondo lui, era regolare, cioè non è un gol annullato, quello è un gol che è stato fatto dopo che l'arbitro ha fischiato. Ma certo, perché è stato fischiato un fallo di confusione come nei tempi bui del calcio. Detto questo, questo non significa che sia un momento buio del calcio, significa che che chi si vede comunque in una situazione del genere fischiare un faro di confusione che interrompe l'azione si arrabbia, o no? O non è al diritto, secondo lei? Anche arrabbiarsi, però non, gol non c'entra più niente. Ma come non c'entra più niente se quello sta tirando in porta? Dai, tiro su. Nessuno ha detto, e se qualcuno l'ha detto in malafede, nessuno ha detto che la Juventus non abbia meritato di vincere, non abbia giocato bene, eccetera. Io credo che la Juventus sia stata più fortunata nel non trovarsi di fronte Zarate e Rocchi in una serata non perfetta per la sua difesa, secondo me, che non per la direzione di Gervasoni. Se però vogliamo dire che Gervasoni, al di là di ogni espressione, appunto, di quelle che fanno arrabbiare Collina, anche abbastanza giustamente, se vogliamo dire che Gervasoni ha arbitrato bene l'altra sera al Lazio-Juventus, no, e non solo per quell'episodio. Elvio ha chiamato da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno dottore. Io a parte volevo ringraziarla del sorriso che mi fa venire quando lei parla di calcio, e soprattutto è una bellissima trasmissione. Grazie. E comunque mi ha già risposto, perché chiedevo se potevo sentire due parole sul posto pochi Gianni Barea, di cui oggi lei ha fatto notare, ha ricordato che ricorre l'anniversario di Fausto Coppi. Lei mi ha soddisfatto, mi ha accontentato, la ringrazio. Grazie a lei, Elvio, per aver apprezzato. Beh, insomma, 90 anni, insomma, non è ancora la cifra tratonda, ma insomma, credo che tra altri 10, questa settimana, ripeto, che andrà, quindi nel 2019, che andrà dall'8 settembre, centenario di Gianni Brera, al 15 settembre, centenario di Fausto Coppi, beh, io mi auguro che la memoria vera, tra 10 anni, sia ancora così coltivata da consentire, anzi da incoraggiare, ma va a sapere se un fil rouge che dovrà unire San Zenone e Po al paese di Coppi, alle porte di Alessandria, a Castellania, in maniera proprio da ricordare anche fisicamente, no? le origini di questi due fuori classe, ripeto, della storia dello sport italiano, uno a pedalare e l'altro a tempestare il carrello della sua vecchia Olivetti. È scaduto il tempo, e quindi grazie a Rudy in regia, a Rudy perché stasera c'è Marsiglia Milan, grazie a Flavio Suardi in redazione, e a voi appuntamento come sempre a domani.